Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, un Salva Danaio che oggi torna a parlare del cosiddetto denaro di plastica, bancomat, carte di credito, carte prepagate. L'utilizzo di questi strumenti è sempre più diffuso, ma al tempo stesso risulta essere particolarmente importante informare e sensibilizzare anche i più scettici, che ancora sono molti, ad un utilizzo consapevole e corretto della moneta elettronica. Negli ultimi mesi a Salva Danaio, lo saprete bene, nelle ultime settimane ci siamo occupati spesso di questo argomento, anche alla luce della recente manovra del governo Monti, la cosiddetta Salva Italia, che ha introdotto il divieto di pagamenti in contanti per le pensioni pari o superiori ai 1000 euro, obbligando molti cittadini ad aprire un conto corrente, quindi in molti casi anche a possedere ed utilizzare una carta di pagamento. I numeri però parlano chiaro. Nonostante questa misura, se guardiamo un po' indietro e facciamo un po' un conteggio, un monitoraggio, scattiamo una fotografia, riscopriamo, ne abbiamo parlato tante volte, che l'Italia è ancora molto indietro rispetto alla media degli altri paesi europei sull'utilizzo delle carte, anche se la tendenza è costantemente in crescita. Questa mattina ci chiederemo e vi chiederemo quali sono i dubbi, le preoccupazioni che in alcuni casi ancora rendono scettici voi o i vostri familiari, amici e conoscenti rispetto all'utilizzo delle carte. E per tornare su questo argomento abbiamo preso a pretesto anche un'iniziativa recente di cui siamo venuti a conoscenza, non casualmente è stata appunto pubblicizzata largamente. Di che cosa stiamo parlando? Per diffondere la cultura della moneta elettronica e approfondire i motivi dell'uso poco frequente dei sistemi di pagamento elettronici è nato un progetto che si chiama Facile e Sicuro, realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino e Adiconsum, quindi due grandi organizzazioni dei consumatori, nell'ambito dell'iniziativa Noi e Unicredit, che appunto Unicredit, una delle più grandi banche italiane, gestisce dal 2008 con 12 associazioni dei consumatori. E tutto questo in linea con un'attività complessiva più ampia di educazione bancaria e finanziaria che il gruppo di Piazza Cordusio sta portando avanti da molto tempo. Allora, noi questa mattina parleremo di questa iniziativa, cercheremo di capire che impatto concreto sta avendo tra i consumatori, gli utenti naturalmente del sistema bancario, e soprattutto risponderemo alle vostre domande. E già immagino che molti di voi ci racconteranno le perplessità sull'utilizzo di bancomat o carta di credito. In molti obiettano il fatto che utilizzando la moneta elettronica di pagamento non tengono sotto controllo il loro budget disponibile, non tengono sotto controllo quanto spendono. Altri hanno paura invece di contraffazioni, di clonazioni, di tutti quei fenomeni appunto che molto spesso portano ad essere i consumatori appunto truffati in qualche maniera, e insomma cercheremo di capire che cosa obiettate. C'è anche un terzo aspetto molto importante, e cioè tutti quei negozianti, commercianti che non permettono con grande facilità, non permettono appunto molto volentieri l'utilizzo del denaro di plastica, perché per loro sono attività appunto con delle commissioni molto spesso molto alte, soprattutto l'utilizzo di certi circuiti di carte di pagamento, perché insomma un mix di fattori che scoraggiano in Italia un utilizzo più ampio della moneta elettronica. Con noi questa mattina Rodolfo Ortolani, responsabile Identity and Communication Italy di Unicredit. Dottor Ortolani, buongiorno, bentornato a Salva Danaio, perché non la sentiamo da un bel po' di tempo. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per la sua disponibilità, così come ringrazio Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum. Buongiorno. Buongiorno. Allora, 800 24, bentornato anche lei naturalmente, l'ho sentita un po' più fredda e distaccata. Grazie. Buongiorno ancora. Allora, e chiaramente tutte le modalità che suggeriamo ai nostri ascoltatori per intervenire in diretta e per esprimerci i loro commenti sui temi che scegliamo. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Le alternative che avete invece vi danno l'opportunità di scriverci messaggi sintetici al 349 238 6666, un po' più articolati se volete all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. potete anche sbizzarrirvi su Facebook, siamo su salvadanaio-radio24, il nostro profilo Facebook, a cui naturalmente è iscritto anche Fabio Picciolini, che qualche volta va a commentare tutti i nostri interventi, le anticipazioni appunto dei nostri programmi. Allora, prima di addentrarci nel tema di oggi, andiamo invece a vedere un po' la borsa come si comporta. Allora, la borsa oggi in Europa era partita bene, era partita male, poi è stato pubblicato l'IFO tedesco, l'indice di fiducia delle imprese tedesche, che è risultato molto migliore delle attese. A febbraio è salito a 109,6 punti, magari a voi questa cifra non dice nulla, ma in ogni caso è stata una rilevazione migliore delle previsioni. Quindi le borse avevano cambiato direzione, erano scattate tutte in territorio positivo, poi è arrivata la Commissione europea che ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2012, prevedendo, soprattutto per l'Italia, una brusca frenata pari all'1,3%. Allora, che cosa deve stupire? Non lo abbiamo capito più di tanto, perché ormai tutti gli osservatori economici e finanziari hanno decretato per l'Italia la recessione nel 2012. Banca d'Italia poco fa ha fatto sapere che scenderemo dell'1,5%, tanto per citare uno dei più autorevoli, eppure le indicazioni che sono arrivate da Bruxelles hanno fatto partire a razzo verso il basso Piazza Affari, e soprattutto gli operatori hanno fatto scattare le vendite sui titoli del settore bancario che avevano ripreso a correre negli ultimi periodi. Basti pensare a tutta la speculazione che gravita su Monte dei Paschi, che oggi frena del 4%. Non è un bel benvenuto per il dottor Ortolani, ma Unicredit in questo momento è il peggior titolo, perde il 4,83%. Scende di 4 punti oggi anche Mediaset, perché il mercato penalizza il titolo a causa dei conti della controllata spagnola, l'ex Telecinco. Fiat meno 4, il Banco Popolare meno 3,7, Popolare di Milano meno 3, Mediobanca meno 2,89%. Chi si salva? Tenaris più 1,78, Campari più 1,46, Luxottica più 0,55%. Oggi abbiamo avuto ancora una volta, tanto per cambiare, tra i casi del giorno di nuovo il forte movimento che interessa ai titoli della galassia Ligresti. Premafin finanziaria più 20%, di nuovo sospesa dalle contrattazioni dalle 11:50. Il gruppo ha ricevuto un'offerta da parte di Palladio e Sator che hanno annunciato il loro progetto per il salvataggio complessivo della galassia Ligresti, tema del quale parliamo da tempo, ma siccome questo andi rivieni dei titoli verso l'alto e verso il basso ormai comincia a non piacerci, nel senso che riteniamo che tutto questo movimento, che al momento ancora dalla Consob non viene bloccato, non tuteli più di tanto, per niente, anzi, i piccoli azionisti, allora abbiamo deciso che domani ci occuperemo di questo argomento, di questo riassetto complessivo, che tra l'altro è anche molto complesso. Ne parleremo appunto domani a Salvadanaio. Detto questo, direi che la borsa la possiamo anche lasciare. Lo spread è a 366 punti base, lasciamolo anche lui da parte. Andiamo al tema di oggi e torniamo sull'utilizzo di bancomat, carta di credito e l'uso della moneta elettronica nel nostro paese, che continua ad avere ancora dei tassi ritenuti non completamente soddisfacenti. Sentiamo per quale motivo. Carte di credito, bancomat, prepagate. Il cosiddetto denaro di plastica è sinonimo di comodità e vantaggi, ma almeno in Italia anche di qualche timore. Nell'utilizzo di questi strumenti di pagamento, infatti, il nostro paese rincorre la media europea. C'è insomma ancora un po' di strada da fare nella diffusione della cultura della moneta elettronica. Stando ai dati dell'ABI, sono circa 80 milioni le carte di pagamento bancarie in circolazione, con un aumento che nel corso del 2010 si è attestato al 4% rispetto all'anno precedente. A crescere sono soprattutto le prepagate, seguite dalle carte di credito e di debito, che restano comunque le più diffuse. In Italia, infatti, le carte di debito, come il Bancomat, sono circa 33,3 milioni e circa 36 milioni le carte di credito. Le prepagate hanno superato quota 5 milioni, mentre l'unico dato in controtendenza è quello relativo alle carte revolving, in calo a quota 3 milioni. La maggiore diffusione si registra al nord, dove si concentra il 56% delle carte in circolazione, contro il 24% del centro e il 20% di sud e isole. Fondamentale per il graduale adeguamento agli altri paesi del vecchio continente è la diffusione capillare e la presenza sul territorio delle infrastrutture necessarie per i pagamenti e i prelievi. Pagare con le carte è sempre più facile. Oggi, presso gli esercizi commerciali, sono installati 1,2 milioni di POS e nel 2010 si sono registrate 1,6 miliardi di transazioni, per un totale di 130 miliardi di euro. Restano però alcune diffidenze e preoccupazioni da parte di alcuni cittadini, ad esempio i meno giovani, soprattutto in merito all'effettiva sicurezza e convenienza di questi sistemi. E a rendere sempre più necessaria un'opera di sensibilizzazione e informazione sul tema, e anche il recente divieto di pagamento in contanti per le pensioni, pari o superiori ai 1.000 euro, che ha obbligato molti cittadini e molti anziani ad aprire un conto corrente e possedere una carta di pagamento. E allora non vi dico già quante richieste di intervento stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, ci fa davvero piacere, ci stanno anche scrivendo, c'è chi racconta della discussione con il benzinaio che si fa perché pagando appunto con la carta di credito un pieno di benzina, forse anche qualcosa del pieno perché il pieno è un salasso, ci vuole prima il mutuo e poi appunto per poterlo fare in questo periodo, c'è appunto la solita commissione di 1,50 euro e qualcosa di cui adesso non mi ricordo l'origine, magari questa anche sarà la trasmissione utile per poter far chiarezza su questo balzello che non si riesce ad eliminare. Detto questo, dottor Ortolani, Unicredit, ci racconta un po' qual è lo spirito di questa campagna di sensibilizzazione che avete lanciato, facile e sicuro, con la collaborazione del Movimento Difesa dei Cittadini e Adiconsum? Ben volentieri. Lo spirito e diciamo il ruolo di questa campagna è uno dei tanti tasselli che assieme all'associazione dei consumatori stiamo appunto mettendo nella relazione con il cittadino consumatore, finalizzato a individuare quello che è un percorso da una parte di conoscenza ma soprattutto di come raggiungimento obiettivo della trasparenza. Lavorare insieme ci ha consentito di avere punti di vista reciproci in comune e di comprendere come meglio comunicarli ai nostri clienti e appunto ai cittadini consumatori. Siamo molto contenti di questo perché sta dando ottimi risultati. Dottor Ortolani, io tra l'altro guardi, stavo, mentre lei mi stava rispondendo, monitorando già il primo gruppo di interventi che gli ascoltatori vorrebbero fare e mi rendo conto che manca forse a questo tavolo, ma non so se voi li avete interpellati anche in passato nel mettere insieme questa iniziativa, un convitato di pietra che è quello davvero del mondo del commercio, perché da quello che capisco, a parte i timori individuali dei consumatori sull'utilizzo della carta, noto ancora che c'è proprio tutto il panorama del commercio che è piuttosto restio a far utilizzare la carta di pagamento di qualunque tipo per qualsiasi tipo appunto di transazione. Fabio Picciolini, questo è un tema del quale parliamo spesso, ma vedo che è proprio un ostacolo che si fa fatica a superare. Chissà se le nuove misure del governo Monti riusciranno a superare questa barriera. Ma io spero di sì. Vorrei partire da una piccola premessa. Io in questo momento qui sono a un convegno proprio sulle carte di credito e ho appreso dei dati che sono quasi contraddittori. Cioè noi siamo il paese in Europa, nell'Unione Europea, con il maggior numero di POS e siamo il paese allo stesso tempo con il minor numero di operazioni croccabili e il minor volume come carte di credito. Il POS, per chi non lo conoscesse, è la macchinetta che ha il commerciante, che c'è al supermercato, dove inseriamo carta e bancomat per poter pagare, ecco. Detto questo, che già dà il significato di come è importante appunto cercare di fare questi progetti come questo con Unicredit, facile e sicuro, ci sono due problemi da affrontare nel momento in cui si parla di commercianti. Il primo, che per me è quello che dovrebbe essere affrontato subito dal sistema bancario nel suo complesso, è che molti commercianti ancora rifiutano, come ha detto giustamente lei all'inizio, il pagamento con carta di credito o anche con carta di debito, addirittura anche con il bancomat. Allora, sulla carta di credito molto spesso la motivazione è il costo del costo dell'operazione per il commerciante stesso. Nel caso di carte di debito spesso troviamo cose veramente assurde, tipo ma per 20 euro perché devo usare la carta. Esattamente. E questa è una cosa sicuramente, io abito a Roma e devo dire che mi capita abbastanza spesso, poi chiaramente io mi so difendere ma non so quanti sanno difendersi su questo. Come si difende, certo? Picciolini, che cosa fa? Si arrabbia oppure minaccia di andarsene senza pagare? Che cosa succede? No, faccio presente che le convenzioni con il consorzio bancomat o con la singola banca che sono altri circuiti non prevedono queste limitazioni, che se non lo fanno lo chiamo ancora la Guardia di Finanza. Molto semplice. Benissimo, la parola Guardia di Finanza li rimette in riga. Allora, ecco, no, poi c'è un altro aspetto, se mi permette, sì. Lascio poi subito la parola al dottor Ortolani che noi in realtà dobbiamo andare in pubblicità, ma le lascio fare l'ultima riflessione. L'ultima cosa, la cosa importante di questo progetto facile e sicuro, che anche se siamo associazioni di cittadini e di consumatori, andremo a confrontarci anche con le imprese o piccole imprese. Mm-hmm. Infatti noi abbiamo previsto incontri con ascolti con i tassisti e con gli albergatori, quindi proprio perché vogliamo che ci sia uno sviluppo di questo strumento che a nostro avviso costa meno ed è più sicuro di quello che può essere il contante. Mm-hmm. Mi sono trovato a dover litigare sia con un benzinaio che con un commerciante perché volevo pagare l'importo di circa 10 euro tramite Bancomat. Per quanto riguarda il benzinaio, era un pagamento in conto ditta, quindi volevo una tracciabilità, giustamente. Capisco che ci siano commissioni, ma rifiutarsi di ricevere un pagamento mi pare un gesto non ammissibile, ci scrive Simone da Lignano. Sabbia d'Oro. Simone, sono d'accordo. Io proprio ieri sera ho fatto una microspesa all'Esse Lunga, ho speso 13 euro, ma vabbè, nei grandi centri commerciali non fanno alcun tipo di problemi, è proprio il piccolo commercio e evidentemente a loro costa, insomma, per loro non è conveniente, però insomma bisogna darsi una mossa e cambiare atteggiamento. Eccoci ritrovati in diretta. Vedo che si sono scatenati molti ascoltatori tra chi difende e chi invece contesta, per esperienze negative vissute naturalmente, l'utilizzo della moneta elettronica di pagamento, bancomat, carte di credito, carte prepagate. Abbiamo peraltro dei dati che sono stati diffusi in un convegno che si è svolto qualche mese fa a Roma, organizzato dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Ha scattato una fotografia realizzata appunto col consorzio Bancomat. Sono circa 80 milioni le carte di pagamento bancarie in circolazione in Italia e sono tante effettivamente. C'è stato un aumento di circa il 4% rispetto all'anno precedente, quindi poca cosa, ma in realtà rispetto a quelle che sono diffuse, quelle utilizzate sono molto molto molto meno. Allora, ascoltiamo i nostri ascoltatori. Volevo però sentire un attimo prima il dottor Rodolfo Ortolani di Unicredit, che oggi è insieme a noi, insieme a Fabio Picciolini di Adiconsum, perché insieme nell'organizzazione dei consumatori, Adiconsum, Movimento Difesa del Cittadino e Unicredit hanno lanciato questo progetto, questa campagna che si chiama Facile e Sicuro, proprio per sensibilizzare i consumatori all'utilizzo della moneta elettronica di pagamento. Volevo sentire il dottor Ortolani che cosa pensa rispetto alla questione della perplessità legata al mondo del commercio che non facilita l'utilizzo delle carte, soprattutto quando si tratta di effettuare micropagamenti. Lì c'è tutto un altro lavoro che peraltro l'industria bancaria sta tentando di fare per mettere sul mercato carte che possano favorire i micropagamenti, appunto, che magari possano avere commissioni diverse, no, dottor Ortolani? Sì, certo, il tema è naturalmente all'attenzione. Per quanto si riferisse agli investimenti che stiamo facendo sull'innovazione, particolarmente a tutti i sistemi di pagamento anche senza contatto, con delle modalità offline, proprio per ridurre i tempi anche di transazione e soprattutto anche per andare a una minor riduzione di costi complessivi. La ragione per cui gli esercenti hanno questo tipo di atteggiamento, uno naturalmente può essere i costi che vengono applicati, ma poi dobbiamo capire qual è il valore, cioè capire, potremmo spiegare qual è veramente il valore per l'esercente, e un altro c'è, diciamo, una motivazione diffusa, che non so se insomma lei mi ha compreso, che probabilmente è così una relativa trasparenza su quella che è la modalità, sì, di incasso. La chiamiamo più banalmente, non dico evasione, però, esatto, insomma, non voler tracciare il pagamento che, esatto, si riceve. Però ecco, questo diciamo che è un fenomeno che in questo momento sta per fortuna migliorando, le carte di credito, quindi i sistemi tracciabili vanno in quella direzione. Io vorrei sottolineare però quali sono i valori per l'esercente, perché sicuramente ha un costo, ma dall'altra parte ha la certezza dell'incasso, nel senso che la banconota falsa non gira più, ha la certezza che un assegno eventualmente versato non è a vuoto, perché comunque queste carte garantiscono immediatamente la certezza dell'accredito, non ha il rischio di dover portare tanto contante la sera nella cassa continua alle 9 di sera, per esempio, che questo è un altro rischio. E poi c'è in generale un valore per la collettività, che è la riduzione dei costi della movimentazione del contante. Le tenga presente che 100.000 euro portati in una filiale dal camioncino blindato, quel denaro da quando esce dalla Banca d'Italia e quando vi rientra viene contato più di 7 volte. Perché naturalmente chiunque lo consegna, chiunque lo prenda, vuole avere la certezza che sia esattamente tutti questi euro. Passaggi di mano, naturalmente. Devo dire che sì, infatti il tema del costo del contante per il nostro sistema è comunque un tema che davvero ai consumatori interessa poco, perché invece loro la vedono da tutt'altro punto di vista. Dicono: a me utilizzare il contante non costa nulla, avere una carta di credito o un bancomat appunto invece rappresenta un costo. Poi vi faccio sentire anche questi ascoltatori, però visto che vorrei completare il tema del mondo del commercio, sentire proprio un commerciante, Michele dalla provincia di Treviso, che saluto. Michele, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei si chiama come mio nipote, per cui mi è doppiamente simpatico. Buongiorno. Buongiorno. Approfitto allora. No, io sono un commerciante e trovo che dal mio punto di vista io sono a pro dell'uso della moneta elettronica, quindi sono un po' contro. Però mi rendo conto che ci sono diversi ostacoli nel mondo del commercio. E che questi ostacoli sono rappresentati effettivamente dal costo di queste transazioni. Ci fa qualche esempio, Michele? Per esempio, certo. Lei se viene, intanto che tipo di settore opera, anche per capire se magari arrivano molti consumatori che vogliono fare dei micropagamenti, 10 euro, 15, sì, 20? Sì, io opero con un marchio noto, per cui sono in negozi in affiliazione, no? Le faccio un esempio: più o meno la metà, grosso modo, dei pagamenti già vengono effettuati con carte di credito o bancomat. Ultimamente sta anche aumentando questa proporzione. Per cui, se mediamente, non so, un negozio fa 500.000 euro, faccio per dire che è un negozio medio, insomma, su un anno di fatturato, lei calcoli che metà, circa 250.000 euro, sono transati coi bancomat. E poiché mediamente mi accorgo, anche parlando con i colleghi, eccetera, le percentuali che vengono addebitate ai commercianti sono nell'ordine dello 0,6-0,8%. Ecco, infatti volevo su questo stock che costo ha, quindi lei, tanto per chiarirlo. Quindi lei deve mettere in conto che 2.500 e qualcosa più euro all'anno li spende per questo tipo di servizio. Devo dire che ci sono dei pro, che sono quelli che ha ricordato il suo ospite, ci sono anche degli altri pro, nel senso che per chiedere credito alla banca, dimostrare che c'è un flusso in entrata abbastanza certo è facile, ci sono anche banche infatti che hanno predisposto linee di credito proprio in considerazione dei flussi in entrata del POS, però ritengo che aumentando la proporzione dei pagamenti dovrebbe esserci una presa di coscienza da parte del mondo bancario che dovrebbero calcolare il costo. Ridurre proporzionalmente anche il peso delle commissioni a carico vostro. Il costo mi risulta che sia attorno allo 0,30%, adesso i suoi ospiti probabilmente ne sapessero di più, potrebbero confermarlo. Quindi se si portasse a questo, ci sarebbe più margine anche per accontentare i clienti. Le voglio chiedere un'ultima cosa, Michele, invece per quello che riguarda le carte di credito, perché siccome so che ci sono dei circuiti molto onerosi che dai commercianti non vengono assolutamente accettati, faccio un esempio su tutti perché tanto lo conoscono tutti, American Express è difficilissimo, certo, utilizzarlo in Italia, proprio assolutamente inaccettato ovunque. Vede, se si fa pagare qualcosa di più al commerciante per regalare dei punti ai clienti, è ovvio che da qualche parte bisogna che qualcuno si stoppi. Ci sono dei clienti che considerano accettare l'American Express proprio un servizio dato al cliente. È logico che per spendere 10 euro, come ricordava lei prima, non si spende con l'American Express, certo, ma si spende col banco. Ma però le faccio presente anche che il sistema bancario applica a commissioni minime sotto determinate soglie. Le faccio un esempio: se io pagassi 20 centesimi per operazione su un'operazione da 10 euro, pagherai effettivamente il 5%. Certo. E lei capisce che se un negozio fa vendite medie attorno ai 20 euro, non può, è ovvio, caricarsi. Certamente. Allora, sentiamo un po', io non credo che sia la prima volta che Rodolfo Ortolani ascolta queste perplessità dal mondo del commercio. Effettivamente è un carico inferiore commissionale, appunto, per i commercianti. Allora, potrebbe essere possibile nell'ottica vista da Michele, proporzionale? È possibile nell'offerta commerciale, noi abbiamo, penso anche le altre banche, aliquote calanti in funzione di quello che è il transatto complessivo, quindi più mensilmente o annualmente, dipende dal contratto che viene stipulato, più viene transato, più bassa l'aliquota che viene applicata commissionale, e le dico, guardi, non ho difficoltà, che la più bassa è 0,20. Per quanto si riferisse la commissione minima, quindi come minima, noi non la applichiamo sulla singola operazione, ma mensile, cioè se entro il mese mi fai un certo importo non c'è problema, se fai sotto, fai conto sotto 150 euro, perché veramente un mese 150 euro non ha senso che tu tenga il POS, io comunque ti applico una commissione minima, quindi non è sulla singola operazione, ma è sulla somma di tante transazioni che se non raggiungi quel limite 150, che è molto basso, in un mese scatta un costo fisso che è giustificato. Picciolini, voleva commentare e aggiungere qualcosa rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento? No, qui quella è però la situazione dell'associazione dei consumatori in cui non sempre è d'accordo con il sistema bancario, non sempre è d'accordo con i commercianti. In questo caso invece siamo d'accordo con i commercianti, perché anche quello che dice adesso il dottor Ortolani a 150 euro, che sicuramente è un importo estremamente basso, però va anche ricordato che c'è il noleggio del POS, per cui comunque il commerciante ha un costo. Certo. L'altra cosa importante è che, appunto, visto che si tende a ad aumentare, e noi siamo d'accordo, e lo sono personalmente anche, all'uso della moneta elettronica, e si riducono i costi del denaro contante, che è stato fatto un esempio molto giusto, ma diciamo che complessivamente costa 10 miliardi l'anno l'uso del contante. Allora, noi vorremmo che questo serva anche per ridurre i costi a carico di coloro che si servono del denaro contante, e quindi sono consumatori per problemi riguardo, e possono essere i commercianti. Quindi il sistema bancario, lei ha fatto un esempio molto classico, peraltro è una carta che invece io uso molto, che in Italia non si può usare l'American Express perché costa, credo, 4% se riguarda, vado a memoria, e quindi è chiaro che un commerciante non è invogliato a prendere quella carta, fermo restando, e qui ho un altro aspetto che va detto chiaramente, che però nel momento in cui si mette la petrofania, ovvero si dice che si accetta anche quel circuito, la carta di quel circuito deve essere accettata, non si può dire ho sulla vetrina accetto la carta X e poi non accettare al momento del pagamento. Perché capita anche questo? Perché capita anche questo. Chi dà la disponibilità teorica, diciamo l'utilizzo della carta, poi si entra una volta l'acquisto che è stato fatto, emesso lo scontrino, e al momento di effettuare il pagamento si dice di no, questo a me non è mai capitato. Adesso diciamo se gli ascoltatori non ce lo segnalano, ma è evidente che ci sarà evidenza da parte dell'associazione dei consumatori anche di questi comportamenti. Uso regolarmente, ci racconta Maurizio, Bancomat, carta ricaricabile da 15 anni per spese utili, per i beni voluttuari e senz'altro meglio tirar fuori i soldi dal portafoglio. Adesso dipende che cosa intende Maurizio per beni voluttuari, che ne so, il gelato, l'aperitivo. È un gesto che ci aiuta moltissimo a capire la differenza tra una gratificazione e un dovere. Non mi sembra proprio il periodo giusto per perdere il contatto fisico con i quattro soldi che ci rimangono. Maurizio, la salutiamo con affetto. Sentiamo adesso invece Isidoro dalla provincia di Lecco. Isidoro, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci racconti. Io ho avuto molte difficoltà con la carta di credito, anche perché avendo una Diner Platino e due oro. È un altro marchio che in Italia accettano con difficoltà, è vero? No, non accettano addirittura. Sì, proprio, è vero. Si rifiutano, cioè, mentre è molto usata all'estero senza nessuna difficoltà. Ma io dicevo anche, cioè, il nostro governo fa le leggi, ma non è pronto per queste leggi qua. Perché io mi sono trovato non in un negozio normale che può avere tante spese, cioè può avere un eccesso di spese sulla carta di credito, sul bancomat, ma addirittura a pagare dei ticket in generale e non accettarmi la carta di credito, accettarmi solo il bancomat. Cioè no, noi accettiamo solo bancomat. Io uso sempre carta di credito perché dopo aver avuto varie rapine in autostrada non porto mai contanti, uso carta di credito. Certo. Uso la carta di credito anche per non ricordarmi i numeri, cioè proprio del bancomat. Ma sai, Isidoro, ognuno ha le sue esigenze, ognuno fa un certo tipo di lavoro, per cui qualcuno sta più chiuso in casa, qualcuno fa più giri invece come lei magari lavora, per cui ha più facilità nel pagare tutte le transazioni che deve eseguire con questa moneta. Ecco, però abbiamo citato il nome di un'altra carta che in Italia non viene accettata. Vi racconto l'episodio di un mio amico che una volta eravamo insieme in un negozio, ha fatto un acquisto, ha scoperto quando eravamo lì pronti a pagare che non ho capito per quale motivo avesse fatto male un conto, doveva pagare molto più di quello che aveva previsto, ha lasciato lì tutta la sua merce, eravamo in un negozio di abbigliamento, dicendo alla commessa io ho solo questa carta di credito, che lì non veniva accettata, per cui siamo potuti uscire senza. Bella roba che vi ho raccontato, però divertente, questo per dire appunto che in pratica in Italia ne vengono accettate solo un paio, le altre due che comunque sono di circuiti anche molto grandi non vengono accettati. Sentirei anche Francesco da Milano. Francesco, buongiorno. No. Francesco, è scappato? No, ci sono. Ci dica pure. Sì, io sono anch'io uno strenuo sostenitore dell'utilizzo del pagamento elettronico. Io ho vissuto per motivi di studio negli Stati Uniti a lungo, e dove si fa qualunque acquisto, sì, lo so, insomma, con la carta. Carta di credito o con la carta di debito. Anche per gli acquisti più piccoli, sì. E questo secondo anche fondamentale, perché come diceva anche prima un suo ascoltatore commerciante, si utilizza probabilmente in Italia per acquisti superiori a una certa cifra il bancomat o la carta di credito. Il problema, io credo, è anche l'utilizzo della moneta elettronica per i micropagamenti. Questa è una grande comodità, secondo me, cioè non si devono portare, non si deve portare con sé una grande quantità di contante, non ci si deve preoccupare del resto, esatto, insomma, di tutta una serie di problematiche di questo tipo. Infatti, no, ma guardi Francesco, la questione è che chi ha vissuto all'estero, chi ci è capitato magari per frequentazioni lunghe, per vacanze, effettivamente coglie la differenza della modalità di comportamento e della praticità. Io faccio sempre questo esempio, lo farò fino alla morte quando tratto questo argomento. Io sono stata negli Stati Uniti e tu fai colazione anche, ti prendi un caffè con un biscotto, una brioche da mangiare il mattino, spendi $5 e te li paghi con la carta di credito senza alcun problema. E rappresento sempre il caso del turista americano o giapponese che viene a Milano e anche in Piazza Duomo, io non so se gli permettono di pagare una colazione con una carta di credito per un importo di questo tipo, e non parlo di Casal Pusterlengo, ma parlo appunto di una grande città italiana dove questo dovrebbe essere nella norma. Un primo commento su questi due casi che abbiamo ascoltato. Rodolfo Ortolani di Unicredit. Ma l'ascoltatore Isidoro parlava della non accettazione di parte di una carta. Questo è un dato di fatto, perché è il risultato della concorrenza, nel senso che i commercianti possono scegliere un circuito rispetto a un altro e naturalmente si orientano a circuiti che sono per loro meno costosi. Il fatto è che i due circuiti cui si fa riferimento sono peraltro quelli che coprono la grande popolazione di carte di credito in circolazione, quindi sostanzialmente avere una carta di quella natura, insomma il nome l'ha citato l'ascoltatore, gli consente di avere una prestazione aggiuntiva, in particolare in paesi come Francia o come il mondo anglosassone, dove viene maggiormente accettata. Dottor Ortolani, il tema di queste carte è che hanno linee di credito non infinite, perché non è vero, però sicuramente particolarmente ampie, quindi sono dedicate a acquisti di particolare importanza. Dottor Ortolani, mi scusi, qual è la qualità, così gliela chiedo un po' da tecnico, poi magari lei lavora in banca, neanche lo sa, dei POS che abbiano, degli strumenti per effettuare il pagamento? No, perché c'è un ascoltatore che ci ricorda. Un tema rilevantissimo, che è quello degli investimenti. No, perché un ascoltatore dice: all'estero fare l'operazione di pagamento, la transazione elettronica, dura 20 secondi, in Italia insomma ci vuole la telefonata, ci vuole anche qualche minuto, anche lì un altro elemento che scoraggia l'utilizzo qui è un tema di infrastrutture, nel senso, prima parlavamo appunto di investimenti, poi c'è un tema di investimenti della banca che ha messo il POS, e poi c'è un tema di investimenti di infrastruttura per la trasmissione dei dati. Poi c'è un altro argomento, che ci sono alcune operazioni che vengono fatte in Italia in estrema sicurezza, perché sono sempre online, quindi nel momento in cui si aspetta c'è sempre la certezza che quella carta sia vera, non sia rubata, che ci siano i soldi, eccetera. Ci sono delle scelte invece che rinunciano alla sicurezza, sostanzialmente vanno in offline e quindi in automatico poi la sera vanno a scaricare le transazioni della giornata. Queste sono le ragioni. Però diciamo che la ragione principale dell'attesa è una infrastruttura intermedia della trasmissione dati, quindi la linea telefonica, che può qualche volta purtroppo non prendere la linea, la trasmissione dati, eccetera. Quindi poi capita sempre anche quella situazione spiacevolissima per la quale non funziona il collegamento telefonico e magari siamo in coda, mamma che figuraccia, siamo lì in coda al supermercato con 40 persone dietro, naturalmente. Però io su questa cosa degli investimenti mi collegherei alla sicurezza, perché dicevo prima è un aspetto molto molto rilevante. Dobbiamo ricordare che per noi, non dico che stiamo banalizzando, ma chi utilizza il bancomat si aspetta naturalmente che questo venga accettato, che vai, incassi, porti via la tua merce, eccetera. Bisogna ricordare che dietro questa operatività ci sono delle infrastrutture informatiche che sono di grandissima portata. Certo, molto complesso. Bisogna ricordare che con quella stessa carta piccolina a Tokyo a mezzanotte puoi prelevare sul tuo conto di Adiategrasso, e non è che sia così automatico questo, diciamo, questa compensazione a livello mondiale, nel senso che effettivamente ci sono degli investimenti. Un altro tipo di investimenti è proprio sulle macchine che vengono installate come i POS. Ci sono banche che stanno facendo investimenti molto importanti per assicurare maggiore sicurezza. Anche la vostra, dottore Ortolani? Ce lo dico, direttamente. E certamente. Perché, insomma, avere possibilità di fare investimenti vuol dire fare sicurezza. Noi abbiamo delle squadre di persone che monitorano i incassi e i pagamenti, cioè i pagamenti delle nostre carte, non per capire che cosa fa il cliente, ma per capire se per caso ci sono dei pagamenti incoerenti, nel senso che se alle 9:15 a Roma è stata fatta un'operazione e alle 9:30 a Parigi con la stessa carta ne è fatta un'altra, vuol dire che qualche cosa è accaduto. Si può avere evidenza subito di questa situazione? Automaticamente. Scattano dei meccanismi di protezione. Ci sono gli alert, certo, tante cose. Allora, noi stiamo quasi chiudendo, non riesco a far intervenire Luigi da Roma e Maria Cristina. Luigi voleva raccontarci che evidentemente ha subito alcune inconvenienti che frenano l'utilizzo della carta, la clonazione, il mancato controllo. Luigi, credo che un po' abbiamo sfiorato questi argomenti, mentre Maria Cristina dalla provincia di Torino voleva raccontarci che ha 68 anni, usa molto le carte, le hanno rubato 4 anni fa evidentemente una carta, usata 3 minuti dopo di lei, non ha avuto nessun danno. Se invece le avessero rubato appunto 100 euro, chiaramente avrebbe dovuto dire tanti saluti a questo denaro. 5 secondi picciolini per una conclusione. Ma è proprio questo della sicurezza, io dico che può capitare che la carta venga rubata, clonata o cose del genere. Qui le banche devono fare un grandissimo salto di qualità, perché ovviamente non parlo di Unicredit, parlo in senso del sistema bancario. C'è un discorso che molto spesso, nel momento in cui c'è un reclamo da parte di un consumatore, il reclamo venga respinto perché la carta, questa lezione solida, non è stata tenuta in maniera corretta. Dire che questo poi, grazie al cielo, a livello di arbitro bancario finanziario, spesso invece si risolve a favore del consumatore. Quindi a mio avviso le banche dovrebbero essere un attimino più attente prima di dire no a una richiesta del consumatore. Benissimo, grazie a Fabio Picciolini e Rodolfo Ortolani, rispettivamente di Consum e Unicredit. Salvadanaio torna domani, buona giornata.